Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E perché guardi sempre l'orologio? Avevo 3 ore che sto qua e nessuno si ferma. Tengo la partita attiva, sti cornutoni. Come mai stasera c'hai tanta fretta? Sbrigati che sei in ritardo. Mi tenne sotto controllo fino all'ultimo momento, suo grandissimo figlio e putanaccio. Cerca di non dire più parolacce, di comportarti bene, di non bere e di non fumare. Sì, fece un voto. La valigia mia. L'hanno caricata sull'aereo. Io non sono più solo, anche se tu ti trovi sull'altra faccia della terra. Qui è l'estate infuocata, mentre da te è il gelido inverno. Cara Carmela, a Roma, dove tu ti sei trasferita per lavorare in fabbrica, io ci feci il soldato, ma sono più di 20 anni che manco dall'Italia. E quando tu mi raggiungerai in questa lontana terra, è come se mi arrivasse un pezzetto della mia cara patria. Carmela dorata, qui è mezzogiorno e da te è mezzanotte. That's all right? Ma che importanza hanno queste enormi distanze quando i nostri cuori battono insieme? Adorata Medeo mio bello, ca è mezzanotte, siamo in mezzo all'inverno e ho tanto freddo. Da quando ricevo le lettere tue non sono più sola. Ca in Italia troppi siamo, stiamo tutti ammucchiati uno sopra l'altro. Io non vedo l'ora di venire in Australia, ca c'è tanto spazio. Chi mi dici dei canguri? Carmela adorata, è giunto. È uno struggente carteggio tra un povero disgraziato emigrante italiano in Australia con lieve difetto fisico e la donna che lui vorrebbe impalmare del suo paese, italiana, attraverso tutto un giro di preti, e era riuscito comunque a ottenere una persona disposta a seguirlo nella sua disperata condizione di povero emigrato. E in realtà però questa donna di mestiere fa la prostituta e trova in questo suo viaggio una sorta di forma di redenzione. Prendiamo questo spunto che commenterò con l'insigne Giuseppe Sansonna. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Da qui alla fine della trasmissione, per vedere di avvalorare una mia tesi che mi sono posto questa mattina. Il rapporto italiano medio nei confronti della prostituta. La prostituta nel vero senso della parola, la donna che si prostituisce, che si fa pagare e in cambio dà il proprio corpo, la propria sensualità. Ho l'idea che per quanto sia cambiato, mutato nel tempo le condizioni, le caratteristiche di questa attività che dicono essere la più vecchia del mondo, nella rappresentazione che noi abbiamo delle nostre radici culturali, quelle attuali, contemporanee, che con Giuseppe Sansonna negli anni abbiamo sempre identificato nella più feconda scaturigine della creatività e dell'osservazione del mondo, che è la commedia italiana, viene fuori un'idea che l'italiano considera puttana in realtà la donna con cui vive, la fidanzata, l'amica che non gliela dà, la donna che passa per strada a cui lui attribuisce costumi liberi, la donna di cui ha paura. In realtà nei confronti proprio della vera meretrice, di colei che esercita il mestiere del meretricio, in realtà un atteggiamento quasi di compassione materna, come se fosse qualcuna della sua famiglia. Hai nella tua esperienza personale, nella tua lettura del cinema, Sansonna, idea che questa è una teoria su quale possiamo parlare per una quarantina di minuti? Possiamo parlarne, diciamo, c'è una sospensione classica fra nel mondo cattolico di cui siamo ancora intrisi, fra Madonna e prostituta, questi due poli fra cui si oscilla, fra la donna di casa, tutto sommato la tradizione ancora ci sta addosso, ci alita pesantemente addosso e quindi si chiede una duplicità, magari il padre di famiglia comunque si... Io ho lavorato al salario della RAI e sulla salaria a Roma e ci sono una serie... C'è un discreto spettacolino. E ci sono molti padri di famiglia che si fermano e consumano, quindi c'è un forte fruire, mi immagino la loro dimensione domestica, senza moralismo, lo dico come spaccato di vita, no? Cioè, avranno una duplicità, prima magari all'uscita del lavoro si concedono un'ora e mezza di svago prima di rientrare in quella dimensione familiare, di quella catena che forse percepiscono come tale. Allora, fermiamoci solo un istante che dobbiamo dare la linea come di consueto. Tu intanto preparati Giuseppe, noi abbiamo annunciato il bello onesto emigrato in Australia che sposerebbe con paesana libera, ci dai una lettura innanzitutto di questa prima figura, di questa rappresentazione di donna che in fondo per circostanze terribili, per disgrazia, perché non lo è fisicamente, non lo è interiormente, è costretta a prostituirsi e vede la via di redenzione di andarsi a prendere Alberto Sordi, ma però in realtà finirà in maniera molto più tragica e molto più classicamente realistica. A tronista. Melog. Cronache Meridiane. Allora, Giuseppe Sansonna e me stiamo cercando di classificare, definire con uno strumento indicatore che per noi di solito è stato sempre molto efficiente, la commedia italiana, negli anni forte la commedia italiana. Vogliamo vedere questa volta l'atteggiamento dell'italiano medio nei confronti della prostituta, della meretrice. Lo dico con termini non dispregiativi, perché in realtà l'idea che mi sono fatto è che non c'è mai disprezzo nei confronti di questa professionista comunque del tempo libero, della certificazione di mascolinità o anche semplicemente delle voragini relazionali degli uomini italiani. In questo film in particolare qual è la figura che spicca? In bello onesto emigrato a Australia sposerebbe con paesana illibata, l'illibata, appunto la non tanto illibata, è una splendida, selvatica, meravigliosa Claudia Cardinale che fa la calabrese prostituta, si spaccia in un doppio inganno a distanza per corrispondenza con Sordi, che invece è un ex minatore devastato dalla malaria e dalle crisi epilettiche e vive in Australia. Quindi ciascuno maschera la realtà vera all'altro. Lui mette la foto di un suo amico per farla venire. Del compianto Garrone, morto da poco, e che tra l'altro si svelerà poi essere un magnaccio che vuole attirare in Australia la Cardinale per farla prostituire. La Cardinale, se vogliamo, è stata l'essenza della donna per l'Italia. La sua bellezza prorompente e sembra, in questo film, viene valorizzata come merce e sembra che il suo destino, proprio ci sia una tara che non possa, da cui non si possa prescindere e che debba vendersi. E si ritrova a fare la prostituta nelle vie della frazione australiana dove sta Alberto Sordi, lui più sfigato che mai, manco lei decide di star con lui. Lui è stralunato alla Stalio in questo film, appunto questo minatore, quindi c'è questa sospensione, questa voglia di avere una donna tradizionale e di ricostruire quella realtà tradizionale italiana anche all'estero, anche così lontano, in mezzo ai canguri, appunto nel nuovo, nuovissimo continente. Però già in questa Cardinale il suo aspetto professionale sembra quasi una circostanza accidentale. Tutto sembra meno che una prostituta, perché non ha nulla di malizioso, nulla di perverso. È una donna che si vede che per le circostanze terribili della vita quello deve fare, ma se gli fosse andata meglio avrebbe fatto, non so, la domestica, qualunque l'operaia in una fabbrica e via dicendo. La bellezza sua è appunto a qualcosa di nordafricano, di ancestrale, di selvatico. Qui appunto fa la calabrese e rappresenta questa donna del sud che, ripeto, ha una fortissima personalità, che cerca di autodeterminarsi, siamo nel 71, cerca anche di affermare la propria personalità, ma sembra costretta dagli eventi, da tutto quello che converge, a rimanere in questo suo ruolo. Come è cambiato lo scenario rispetto allo spettacolino che tu vedi quando vai a montare sulla Salaria? Erano tutte italiane e quasi tutte del sud, le amiche che stanno lungo la strada e facevano quel mestiere. Erano signore poi, a differenza di lei, anche molto poco nel ruolo, sempre persone che si erano finite lì perché la vita altro non gli ha presentato. Dottor Ercoli! Va bene così in tenuta da lavoro? Siamo pronte. Da questo momento le camere da letto sono aperte al pubblico. Coraggio, signori! Nessuna paura della polizia, abbiamo un ottimo protettore. Non è vero, dottor Ercoli? È contento adesso? È così che dobbiamo lavorare, no? Non è questo che voleva? Lei, signore, lei vuol salire? Se non le piaccio io, ci sono le mie compagne. Avanti, mica le dovete sposare. E voi, ragazze, al lavoro per arricchire il dottor Ercoli. E ricordatevi che non siamo serve, siamo puttane. Perché tanto noi qui non possiamo far altro, niente altro che questo. Qui c'è una sorta di rivolta sindacale delle prostitute. In che contesto siamo? Siamo in Adua e le compagne, meraviglioso film corale di quel genio del ritratto femminile che fu Antonio Pietrangeli. E qui si racconta la storia di che dopo la legge Merlin del 58, è quasi un instant movie, stiamo raccontando una realtà viva e pulsante, si sono chiuse le case. E poi questo conferma la teoria che abbiamo sempre detto. In quegli anni la televisione non raccontava niente perché era finta, edulcorata. Il cinema era lo vero, il Ballarò del tempo, o diciamo la Gabanelle del tempo, faceva film, non faceva televisione. Esatto, esattamente così. E in più approfondiva attraverso lo strumento della finzione, della rielaborazione. Qui la prostituta ha il volto magnifico, la grandissima personalità, lo sguardo intenso di Simone Signoret, che capeggia questo quartetto di prostitute che dopo la legge Merlin cercano in autonomia di aprirsi un ristorante. Ma ancora una volta il destino, comunque anche fuori fuori dall'istituzionalità del bordello, la donna prostituta deve continuare a mercificarsi, e quindi arriva Claudio Gore, che incarna l'istituzione violenta, cinica, e tornerà a sfruttarle. E ritrovano il pappone privato piuttosto che il pappone di Stato. Ehi, tu, vieni, andiamo a divertirci. Ma cosa segrete lei? Io c'ho casa mia, sa, con l'acqua, la luce, il bill di gas, con tutte le comodità, non mi manca niente. Amanda, ma che c'hai? Mi sposo, dai, sì! Uno che mi va bene! Ma quale bene? Se non hai nemmeno un mese che lo conosci, ma vai capire che t'ha buttato al fiume! E perché mi dovrei sposare? Due notazioni. Il cliente che dice a Cabiria ci andiamo a divertire, poi lui solo che si diverte, lei non si diverte per niente, e il suo orgoglio, dice più volte nel film, che c'è la casa col PB gas, cioè finalmente la bombola del gas dentro casa, che probabilmente in quegli anni era già considerato un passo avanti nel progresso, invece che la carbonella, il fuoco, c'ho il PB gas. E qui sono i vaghi di Masugli dello sceneggiatore Pasolini, che offre a Fellini nelle notti di Cabiria del 1957 la sua conoscenza delle borgate, dell'inacase, delle case che si stanno allacciando le fogne. Però c'è il mondo che prevale, che è quello trasfigurato, onirico, di Fellini, che mette la sua musa Giulietta Masina come questa sorta di candido femminile che non ha nulla di puttana, anche no. Qua finora abbiamo elencato le prostitute che nulla hanno, non hanno le physique du rôle, proprio sono donne per vedere che sono in quella condizione per una circostanza del tutto accidentale, non sono fatte per fare quello. Beh, nel gineceo mentale di Fellini la Masina era un punto fermo fra una galleria di donne sfavillanti, meravigliose, c'era questa figura un po' appunto da candido che però gli è rimasta sempre a fianco, che lo riempiva, lo rimpinzava di ottime pietanze, favorendone anche l'adipe, ma soprattutto incarnava una figura rassicurante, sognante, mentre era la dimensione quella non perversa, che invece lui ha sfoderato in altri film. Non salutano nemmeno lei, salutano il miliardo. Impari a giudicarli per quello che sono. Questi uomini avrebbero voluto diventare dei grandi ladri, ma in genere non ci sono riusciti. È difficile anche rubare. Le loro donne sono delle povere creature che si sono vendute ai mariti. E l'unica forma di ribellione si riduce a qualche tradimento. È una povera soddisfazione. Lo so perché piange, ha ragione. Lui è un bravo ragazzo, voleva trasformare la sua vita, ma questo non è possibile senza cambiare tutto il resto. E lui questo lo sa, è troppo giovane e impulsivo. Lui vorrebbe fare tante cose, mettere i ladri in prigione, redimere le prostitute e forse ridurre un pochino il mio patrimonio, ma è ancora troppo presto. Per il momento sono io quello che ho in mano la situazione e che può fare qualche cosa per lei senza chiederle nulla. Dove siamo qua, Sanson? Siamo nel 1954, il film è La spiaggia di Alberto Lattuada ed è uno straordinario spaccato corale di un'Italia che ha dei punti fissi, cioè Raff Vallone che incarna con la sua faccia ruvida, solare, piena di buoni sentimenti e di valori, un'Italia che vorrebbe cambiare, che vorrebbe appunto redimere le prostitute, ridare dignità alla donna, ridare dignità al lavoro, al volto del Kalosca Iagazos, del bello e buono. In più c'è invece contro di lui c'è il vecchio miliardario avido e una società corrotta, pettegola, squallida, tutta disseminata su questa spiaggia ligure. Martin Carol è la prostituta, bellissima, bionda, anche lì un po' diafana, anche un po' Madonna nel suo aspetto, che Raff Vallone vorrebbe redimere, la Maddalena da redimere. E invece il miliardario dice sì, ma per adesso conta il mio miliardo, va tutto bene, ma quello che conta è che tutti, infatti tutti, questa è la scena finale in cui tutti quanti si scappellano davanti a loro due e lui dice ma non salutano me, salutano il miliardo, salutano il potere, e questo decide. Beh, è interessante questo spaccato di società, lo Stargate, la porta che mette in comunicazione il mondo dell'apparenza, dell'ipocrisia e il mondo della reale sostanza, del marciume interno, è proprio la prostituta. Eh sì, perché poi anche il vessillo, e questo tornerà anche in anni recenti, ma cioè rimane sempre, hanno bisogno della escort, perché comunque la escort valorizza e fa lucere la ricchezza, cioè c'è sempre la necessità. Ma sempre un'accompagnatrice in un passaggio, quelle antiche figure che vengono chiamate psicopompe dal mondo classico. Ci fermiamo un istante, tra poco. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con te, Alessandro. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino. Due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Vabbè, vabbè, ho capito. Quanto ti servirebbe? Tu lo sai che non ce l'ho i soldi. 200 sacchi. E dove li trovo? Ma non lo sai che me li sono spesi tutti per la casa, quelli che c'avevo? Per la licenza, per il banco in piazza. Ah, ma te vado a giocare. Ma loro non mai capito. Ma che te lo insegna io come sai fare i miei diagrammi? Ma allora tu sei scordato. Ancora non te sei saziato. E che sarà mai? Se ci metti un po' di buona fantasia, con una decina di giorni i rimedi, non te pare, Ro? Beh, anche qui c'era una donna che voleva smettere, uscire dal giro per un figlio così, e invece il marchio d'infamia deve seguire tutta la vita, quindi quando servono soldi ti rimetti nel giro una decina di giorni, hai fatto. Beh, se ci pensi, Mamma Roma, Pasolini, che è stato forse la coscienza critica del secondo dopoguerra più importante d'Italia, anche lui oscilla fra questi due poli, cioè fra la madre, Madonna, e la prostituta, la lacerazione, la dicotomia, la scissione lacerante che nel 1962 lo porta a fare Mamma Roma, a recuperare, a far rinascere l'accattone Citti, che qui cerca di riportare la sua ex prostituta alla vita di strada per avere ancora soldi, perché è ancora assetato, ancora non ti sei saziato, gli dice. E lei invece per Ettore Garofalo, che è il suo figlio che morirà incatenato al letto di contenzione come un Cristo di Mantegna, sulle note di Leopardi, ecco, tutto va a comporre l'affresco di un grande melodramma, perché in fondo Pasolini era anche legato a questa tradizione del melodramma e crea questa, appunto, questa sua visione della prostituta. Però ancora una volta le stiamo analizzando tutte, non ho visto una che ha tutti gli effetti, uno potrebbe marchiare con il terrificante disprezzo del mondo maschile, quella è una puttana. Tutte puttane comunque che vivono in una sorta di empireo in cui sembrano quasi delle persone che devono espiare qualcosa, ma dei mali del mondo, non delle loro colpe. Sì, sì, sono costrette alla necessità, c'è un fato ineluttabile e terribile che le conduce a vivere in strada. Margherita, sono io. L'ho presa, sai? Sì, sì, in questo momento. No, Avorio non c'era, l'ho presa Grigio Alba. No, la targa. Ce l'ho qui davanti a me. Sì, ma forse è meglio, sai? Eh sì, perché tiene di più lo sporco. Ho firmato cambiali per 25 minuti, c'ho ancora il braccio che mi fa male. Ma certo che ce la facciamo, perché non ce la dovremmo fare? Abbiamo sempre pagato tutto. Ma dai, Margherita, perché ci dovremmo pentire, scusa? Non esageriamo, la macchina ormai non è mica più un lusso, è una necessità per tutti. No, no, no, i bambini non li mandare a letto. Venite tutti alla finestra, così quando arrivo suono e la vedete. Cosa? Sì, la Mercedes. Via Marcellino che è la Mercedes. No, io faccio le prime annotazioni e poi tu completi. Questo uomo schifosissimo che compra la nuova 600, il simbolo dello status raggiunto in Italia del boom, i colori, la moglie voleva colore avorio. Le 600 hanno dei colori terribili, dei colori pastello. Deve essere qualcosa di carezzevole, non aggressivo. La prende Grigio Alba, che era schifosissima, ma sempre meglio del color marroncino, capito? Tiene meglio lo sporco. E questo maniaco del nitore, delle tinte pastello, dei mezzi toni, cosa farà dopo con questa 600? Mentre i bambini aspettano in finestra, arriva il papà, finalmente anche noi facciamo parte dell'Italia del boom, abbiamo la 600, dove ci va? Il varo della 600 avviene proprio sulla strada con una prostituta, cioè viene svezzata la macchina. Proprio con questo, prima che ci mettano piede e nati, che la madre, i pargoli, i sacri fanno, piedini dei bambini. E invece c'è la prostituta che è denunciando qual è poi il vero fine dell'acquisto di questa macchina, cioè avere un'alcova viaggiante e che permetta questa doppia vita a tutti, questa dimensione del dottor Jekyll, che non si sa quale sia il Jekyll e l'Hyde della quotidianità, del terribile sì, quotidiano. Con 20.000 lire in più si mettevano i ribaltabili, sì, la 600 con i ribaltabili permetteva avventure extraconiugali, fidanzate con cui si poteva tentare la prova d'amore e naturalmente andare lungo le strade e raccattare le puttane. Questi sono i mostri. Sì, i mostri di Dino Risi, che appunto attraverso i corpi, i volti, la nasalità arrotata, gli occhiali spessi di Tognazzi e Gassman, racconta una galleria di italiani del boom, in un boom che appunto era solo una promessa ma che effettivamente poi non sarebbe arrivato. Ecco, adesso abbiamo il più improbabile, il più tenero e il più disastroso approccio con la media classe impiegatizia e il mondo della prostituzione. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, ecco. Solo numeri di telefono. Ah, ha capito? Ci si sceglie. Ci un drink, signori. Volete bere? Sì! Ma... Beh, noi abbiamo portato la Prunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibi cotti da casa. Ci porti tre scotches, grazie. Cos'è che beviamo, Calboni? Tre scotches. Beh, io intanto mi butto, Scotches. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. Grazie, contessa. Grazie, cara. Bellissima. Ecco, qua c'era soltanto uno nel Pantheon fantozziano che in realtà se ne intendeva di puttane. Qui sono puttane vere, disgraziate, poverette, strape, che erano mesi che aspettavano in questo locale ippopotamo che venisse qualcuno da spennare, e arrivano i nostri impiegati. Arrivano Fantozzi, Filini e Calboni, però questo, la cosa meravigliosa della faccenda è che c'è un darsela bere, bisogna comunque rivestire di conquista da night con queste palme dipinte. L'entrenese che in realtà lui si illude che sia un signore dell'alta società che vanno lì per avere rapporti sessuali da brivido. Poi lo simoro calboniano a me fa ridere ogni volta, dell'alta aristocrazia borghese, no? l'alta aristocrazia borghese. Ecco, lui è di fatto Calboni. Per l'impiegato è un aristocratico il borghese, chiaro. Sì, perché c'è un cortocircuito meraviglioso. Calboni è la versione, soprattutto quello sublime di Anna Trelli, è la versione degradatissima dell'italiano roboante, mellifluo, fascinoso alla Vittorio De Sica. Lui è la versione in sedicesimo, orribile. Sì, che hanno sfigato come gli altri. Sì. Però non so, c'ha una sua allure quasi conquistata, non sa come. Ma per la signorina Silvani, ecco, cioè, in quel microcosmo terrificante, però comunque metafisico, che rimbalza... Beh, è Miss Universo la signorina Silvani in quel mondo, è l'unica donna, fra l'altro. È certo, possibile. Quindi lui con la brillantina, il suo baffone, ben vestito, con la parlata, la musicalità napoletana e quell'aria da uomo di mondo che beve il whisky mentre loro... Whiskies. Tre scotches. Appunto questo anglismo che appunto, come ben notiamo... Tre scotches. L'anglismo non ci ha mai abbandonato, l'anglismo è improbabile a noi italiani, non ci ha mai abbandonato anche nel rapportarci al mondo per darci un allure di fascino e di importanza. E questo lo incarna benissimo, però qui il rapporto con la prostituta è mediato da una costruzione scenica che il night offre. Cioè, alla fine, dopo che hanno speso milioni, cioè, gettò finalmente il velo su quello che erano, ovvero delle prostitute. Fantozzi ha solo 50.000 lire, cioè bastano appena per la mia. Bastano appena per la mia, dice Calbo. Gli prese anche la casa, capito? Esatto. Ricominciamo. Se ci trovassimo su una torre, io e il Papa, e tu dovessi spingere nel vuoto uno dei due, chi getteresti giù? Rispondi. Sii sincero. Il Papa si butterebbe giù da solo. Qua dove siamo? Qui siamo nell'udienza di Ferreri e qui la cardinale ritorna in forma di prostituta, c'è ancora lei, però è una prostituta che serve al poliziotto Tognazzi per impedire al kafkiano Iannacci di accedere all'udienza papale, questa figura kafkiana che ha bisogno, come in pieno processo, in pieno castello, cerca di accedere al Papa, ma non riesce ad arrivarci perché gli è impedito la sua purezza. È minacciata continuamente da questi loschi figuri che sono Gassman, dall'aristocrazia nera, e Tognazzi, mentre lei è la prostituta che lo, con le sue però la sua aria materna, qui si torna col discorso che facevi tu, la sua aria molto distante dall'icona della prostituta di strada lo allontana, lo storna via dalle sue pretese di volontà di, appunto, di udienza. Dimmi, che t'ha detto, Oh, a un certo momento, sai che m'ha fatto? Che t'ha fatto? Dimmi. Non mi mette le mani addosso, non m'alza le vesti. Bello. E tu, dimmi tu. Gli ho dato uno sgarassone che ancora se lo sente. È cascato per terra, tanto gli ho dato forte. Non ho capito bene. Ma come, non sei contento? Sono contento? Gli ho dato uno sgarassone. A chi? All'onorevole. Oh, mamma mia. E perché? Beh, mette le mani addosso a me, a una signora. Che sei? Chi è una signora? Io. Sei la battona, sei? Io per lui sono la signora Sartoletti. E la signora Sartoletti non si fa mettere le mani addosso da nessuno. Ma se io ti ho mandato dall'onorevole come la mia signora, è perché sei una che... Qua è interessante il gioco degli specchi. Alberto Sordi, per ingraziarsi onorevole, assolda una prostituta simulando che è sua moglie. L'onorevole, naturalmente, affascinato dalle grazie di questa signora, le mette le mani addosso. In un moto di orgoglio, la signora, la prostituta, salva l'onorabilità dello schifoso Sordi dicendo: ma come, sono tua moglie, non lo permetto questo. E lui ci rimane male. Siamo nel 64. Sordi ci rimase male anche nella vita, perché Sordi aveva una venerazione per la manga, gli creava dolore che facesse la prostituta anche in scena. Poi accettò e c'è un'intesa magnifica fra i due. Loro si adorano, si vede che è un'intesa straordinaria. Lei poi tornerà dall'onorevole per far ottenere al presunto marito un favore, quindi si ricalerà nel ruolo offrendo le sue grazie. E alla fine la cosa meravigliosa è che Sordi le insegnerà come prostituirsi nell'alta società, appunto, e come ottenere dei favori, come modulare la propria prostituzione ad alti livelli, con classe, non più di strada. Quindi c'è una sorta, c'è una crudeltà, ecco, quella, viva Dio, che c'era una volta negli anni 60 nei vari Sonego, negli sceneggiatori, in Sordi stesso, in Gora, ancora una volta quello di Adu e le compagne, che torna in forma di onorevole, che anche i volti si sono persi di questi caratteristi feroci che incarnavano il potere magnificamente. Dopo, guarda che raffinatezza di scrittura, stiamo parlando da 5 minuti di un minimo particolare, pensa rispetto alle rappresentazioni piatte, monocolori oggi e manichee delle realtà, sono realtà molto sfumate. E anche una figura così difficile da raccontare in un'Italia codina, beghina, sacrestanesca, presenta comunque una sfaccettatura di letture fantastica. Ci fermiamo soltanto un istante e riprendiamo fra un po' con Giuseppe Sansone. Melog, cronache meridiane. Non è andata bene stasera. Ma va, mi è capitato un tartufo, mi ha dato 1.000 lire in pacchetto dei nazionali. Com'era, giovane o vecchio? Boh, chi l'ha visto in faccia? Lei ci andrebbe con una donna come questa? No. Perché? Non è mica peggio di tante altre. O lei non ci va con donne così? Sì, qualche volta. Senti un po', Gregory Beck, me volete far capire qualche cosa pure a me? Che volemo fare? Ma non avevi detto che volevi essere accompagnata a casa? Sì. E noi a casa ti portiamo. Perché? Cosa avevi pensato tu? Io? Niente, cosa pensai io? Qua siamo nel sottile mondo della raffinatezza erotica, del gioco della perversione. Si fa una scena tragica, fra l'altro, no? Siamo nella dolce vita, racconto una vanno a finire in una sorta di tugurio, con l'acqua per terra, la prostituta porta a casa questa coppia, quella, questo frisson, questo brivido, è una cosa terribile. Sì, siamo in piena dolce vita, Anouk Aimé è questa donna bellissima, annoiata, che arriva a Piazza del Popolo, Mastroianni la segue perché è attratto dalla sua bellezza, sono tutti e due inlanguiditi dall'apatia, incontrano questa prostituta Logora, che appunto ha fatto serata scadente a Piazza del Popolo, e si offrono di accompagnarla per erotizzare il loro rapporto, andranno a consumare sesso appunto in questa casa. Uno immagina un rapporto a tre, ma figurati, semplicemente occupano il letto della prostituta in un posto orrendo, una casa disastrata. Spiriti. E gli spiriti sono cessati, dirà Totò nella parodia della Dolce Vita. Sì, gli spiriti sono proprio cessati, c'è l'Appio Tuscolano in fondo. Episodio reale della vita di Sergio Citti, che Sergio Citti raccontò a Pasolini, e Pasolini contribuì alla sceneggiatura con questo frammento di vita. E vanno a casa, la prostituta è allagata perché è scoppiata la Niene, non so cosa è successo, ha travaricato l'argine e il fiume, quindi cammina su del tavolati per in un guado, e vanno a dormire in questo letto nel guado. Questa gli fa il caffè, poveretta, completamente spogliata di ogni possibile partecipazione erotica, una cosa tristissima. Il pappone imporrà poi appunto al mattino un valsente, una ricompensa per aver offerto il proprio letto, insomma, per la nottata. Immagina che letto poi, sì, figurati. Sì, diventa appunto il brivido, come dicevi tu, la necessità di erotizzarsi. La prostituta logora, che incarna il vero cliché della prostituta, diventa solo un elemento. È la discesa nell'interiore della terra, nell'inferno, capito? Senza contaminarsi, infatti. Loro rimangono sempre signori. Signori, ma volete fare una chiavatina? Ma io veramente? Va bene, la chiavatina svetta svetta. Vedrete come vi sentirete meglio dopo. Tiene 13 anni, è quasi verginella. Ma non tiene paura, è brava. E tutti rimangono contenti. E rimanete contenti anche voi. Veramente? Non mi è mai capitato, ecco, non ho tempo. Facciamo svelti, svelti. 3.000 lire e fate contente questa povera figlietta e mamma che tiene tanto bisogno. Qui va proprio bene. State tranquillo, che è sana e pulita. Sì, ma... Questo è nuovo e questo se li sente. Sì, ma guardi... Ma state tranquillo, ci penso io. Fate i vostri comodi. Senti, così è... È scomodo, guarda. Una scena terribile qua. Una madre che vende la figlia tredicenne. Sì, qui siamo a metà degli anni 70, in Storie di vita e malavita di Carlo Rizzani, regista impegnato. E qui si coniugano un po' diverse istanze, un po' quelle che racconti sempre tu, la necessità del cinema di raccontare la cronaca e quindi di avere un impegno civile, uno sguardo attento e caustico su quello che avviene, coniugandola però alla pruderia, alla pruriginosità, alla necessità di sesso visibile. Beh, guarda, degli anni 70 raccontare una scena del genere oggi farebbe scalpore in un film italiano. Una madre che vende palesemente una figlia di 13 anni. Paradossalmente c'era maggiore... Che succede, accade negli episodi legati ai parioli, ai quartieri alti delle città italiane, è esattamente la stessa cosa. Qui questo film nasce da un'inchiesta giornalistica e la ripropone in questa Milano livida, grigia, in cui accadono una serie di episodi con attori presi da... e attrici prese dalla strada, che coniuga anche un po', appunto, dà un po' di erotismo in pasto al mercato del tempo, però riesce a mettere il dito sulla piaga. Un erotismo maledetto, perché nulla di erotico questa scena, stringe l'anima a sentirla. Sì, perché appunto è di denuncia, però nel corso del film ci saranno anche aspetti più pruriginosi che dovevano coniugarsi col mercato del tempo, però allo stesso tempo offre uno sguardo lucido, spietato su quello che è il quadro della situazione, con più crudeltà e più libertà di quella che c'è oggi. Le piace, signorina? È la mia passione. Ho qui il suo conto. Sì, lo so che i soldi non bastano. Oh, ma c'era un errore. Ah, lo dicevo io. Oh, un errore di forma. Non vorrei che lei mi credesse così attaccato al denaro. Mi ci ha messo anche l'ICE. È la legge. Ma si può sempre trovare il modo per mettersi d'accordo. Per non pagare l'ICE? Beh, per l'ICE e per il resto. E poi perché vuol partire così subito? Può fare i bagni con questo bel sole. Ma guarda, è pagato dall'ente del turismo, lei? Magari più tardi, se vuole, possiamo studiare insieme la situazione. E se non la volessi studiare, la situazione con lei? Mi dispiacerebbe doverle ricordare che il conto è di 14.200 lire. E le ho sempre calcolato la stanza singola da quando lei è rimasta sola. Poi sono 6 giorni che va avanti a Brodini e a passati di verdura. Mi dia la lista. Luigino, servi subito la signorina, muoviti. Il solito fior di latte? Non discutere, porta la lista, dai. Ecco la lista. Allora, cominciamo con gli antipasti. Che antipasti? Tutti. Poi, lasagne, bistecca, patate, aragosta, frutta, dolce e un gelato. E mi porti anche una doppia porzione di trippa alla fiorentina. Ma come, le piace la trippa? A me no, ma a lui sì. Levema anche ste spalline. Lo vedi che ti sta già meglio così? Ecco qua, mi sembra aver capito. Poi tu mi spiegherai esattamente il senso di questa scena, che cambia completamente la vita quando decide che il conto, la pensioncina che finora sarà mantenuta a brodini e mozzarelle, lo pagherà lei in natura, e naturalmente cambia tutto. Ancora una volta c'è lo sguardo di Pietrangeli a guardare una donna negli anni 60. Nel 63 il film La Parmigiana, la ragazza bellissima come la Sandrelli e come la Cardinale, è Catherine Spack che incarna la giovane bellezza abbagliante. In un mondo, lei ha una sua purezza adolescenziale, ma è un mondo che le dice che la sua bellezza ha un valore di mercato molto forte, cioè tutto gli fa capire che è un valore spendibile. e che quindi da un lato, senza dirselo esplicitamente, senza dire tu sei una prostituta e quindi io ti sfrutto in quanto tale, ci sono dei modi per mascherare la realtà, e questo è molto italiano, come in Fantozzi abbiamo visto prima, c'è un modo di nascondere, di mettere in scena, di coprire con scenografie più voluttuose, meno crudeli, la realtà. Quindi è uno scambio in amicizia, io ti do... Sì, certo, è improvvisamente la crapula in cui lei si butta, sembra proprio la grande abbuffata, sì. Bistecca, aragosta e trippa, tutto insieme sullo stesso tavolo, che è una cosa inconciliabile, perde anche il senso del gusto, del piacere, tutto, so che posso avere tutto, voglio tutto assieme. Sì, una sorta di vendetta, un rilancio rablesiano. Tiriamo allora, se possibile, delle somme rispetto a questa carrellata. Il resto della mia idea, non vedo una figura tracciata con quel tradizionale e classico e deprecabile disprezzo con cui la società comunque vede, indica, accenna la prostituta. Ci sono, ma sono tollerate, comunque fanno parte di un disegno superiore, una sorta di necessità, di equilibrio in cui anche loro hanno la loro funzione. Sì, le prostitute, ti ripeto, la donna ha comunque bisogno di essere vista in una visione edulcorata, le donne... la prostituzione viene nascosta, viene messa in scena attraverso altri modi, perché sennò è troppo crudele. Anche perché poi il primo vero grande complice, istigatore e demiurgo di ogni prostituzione è sempre l'uomo. Certo. Grazie Giuseppe Sansonna, è stato un piacere. Il tuo contributo è stato di alto profilo. Grazie a te per questa occasione ancora una volta. Chiudiamo grazie, così, dai. Grazie. Un abbraccio.